Anche se è un argomento delicato, complesso e imbarazzante, la masturbazione è una realtà della vita che non è possibile ignorare. È vero che nella Bibbia non se ne fa espressamente cenno, anche se l'episodio di Onan, narrato nel libro della Genesi, viene preso per condannare tale pratica. In verità Onan faceva solo in modo che sua moglie non avesse un figlio per non avere un erede che fosse di suo fratello. La norma del Decalogo cattolico non commettere atti impuri, che include il divieto della masturbazione, è una pura invenzione, perché nei 10 comandamenti dati dall'Eterno a Mosè non esiste. Solo nel libro deuterocanonico dell'Ecclesiastico o Siracide abbiamo un testo che potrebbe forse alludere alla masturbazione, ma nulla di più. Questo spiega perché il tema della masturbazione è complesso non solo come atto in sé, ma anche come pratica morale. È lecita la masturbazione oppure no? Se si rispondesse subito con un no, la risposta non aiuterebbe proprio nessuno. Rispondendo invece con un sì, si incoraggerebbe un'abitudine che non deve rimanere un'abitudine. Perciò è più che necessario fare alcune valutazioni in merito alla masturbazione. Diciamo subito che la masturbazione tempo fa veniva severamente condannata e chi la praticava era avvertito che avrebbe subito dei danni fisici e psichici, cosicché un'educazione del genere non poteva che incutere terrore e angoscia soprattutto nei ragazzi. Nell'ambito del cattolicesimo, Tommaso d'Aquino pone la masturbazione tra i peccati contro natura perché evade la procreazione. Ma simili opinioni non scaturiscono certamente dalle pagine della Bibbia, anche se la pratica dell'autoerotismo è la più antica droga sessuale. Però, quant'anche la masturbazione fosse lecita, non causasse nessun danno psichico e non facesse nessun male, sarebbe pur sempre da evitare, se non altro per evitare la chiusura egoistica in se stessi. Altra cosa da tener presente è che spesso, quando si parla di masturbazione, si pensa ad una pratica tipica del maschio, ma esperti che hanno un ministero pastorale tra i giovani sostengono che sono soprattutto le donne a essere vittime a tale pratica. Perciò, un tema come quello della masturbazione coinvolge di ugual misura sia uomini che donne, sposati o nubili che siano. Come abbiamo detto, non vi è nulla di esplicito nella Bibbia che faccia riferimento alla masturbazione, ma vi è una serie di comandamenti che riguarda il nostro tema. Li troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi. Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, non con passioni disordinate come i gentili che non conoscono Dio, e che nessuno inganni e frodi negli affari il proprio fratello, perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che vi ha anche dato il suo Spirito Santo. 1 Tessalonicesi 4:3-8. La lettera di Paolo era indirizzata a dei credenti che stavano seguendo la morale della popolazione, dove la sessualità non era regolata dall'etica di Dio. Così Paolo ricorda che la volontà di Dio è innanzitutto non praticare una sessualità incontrollata, libera da ogni regola, ma tendere alla santificazione, cioè a migliorare come condotta. Quindi, per prima cosa il credente deve essere in grado di possedere il proprio corpo, e considerata da qualsiasi punto di vista, la masturbazione rimane un atto incontrollato, dove chi è sotto la pressione del desiderio sessuale non riesce a trattenersi dando avvio al soddisfacimento dell'impulso sessuale. Molto probabilmente anche questo è il senso di colpa che produce la masturbazione, oltre che rendersi conto che la sessualità è un dono che non può essere espresso egoisticamente. Perciò è molto significativo che la soddisfazione egoistica della propria sessualità lasci dell'insoddisfazione e frustrazione. Perché allora si arriva a questa pratica solitaria e a volte rende schiavo chi ne è soggetto. I motivi sono tanti, ma sulla lista capeggia la mancanza di entusiasmo e gioia, il non accettare se stessi e le circostanze negative della vita, una sessualità fantasiosa e irreale. Una ragazza confessava di non riuscire a smettere con la masturbazione perché prima che accadesse Aveva una specie di gioia dell'attesa, dicendo a se stessa: finalmente una possibilità di sfuggire alla monotonia della vita quotidiana. Questo responsabilizza molto i genitori, i quali, oltre che provvedere le prime necessità, dovrebbero anche dare ai loro figli dei sani obiettivi da raggiungere, affinché la vita abbia un buon sapore. Anche se la masturbazione non è dannosa, ciò non significa che sia salutare. Per prima cosa, non è un modo maturo per trattare con la propria sessualità. Inoltre, cedere ad essa è un danno per lo sviluppo della propria personalità. Venne da me un giovane per confidarmi la sua debolezza sessuale e chiedermi se era peccato la masturbazione. Non gli risposi né sì e neppure no, ma mi limitai a fargli comprendere le benedizioni di una sessualità controllata. Gli dissi che il nostro istinto sessuale è come il grande potenziale di una diga, e da come veniva usato questo potenziale dipendeva o si formava il nostro carattere. Se l'acqua si lascia andare in modo indiscriminato, procura solo danni e morte, ma controllata e incanalata è una benedizione per tutti. E così è della nostra sessualità. La nostra sessualità è un grande potenziale che è espresso in qualsiasi momento, senza tener conto del contesto e del lecito, procura danni emotivi e psicologici caratteriali. Ma se la sessualità viene giustamente adoperata, arricchisce la nostra personalità. La sessualità ci è stata data non solo come un dono nell'ambito dell'esercizio sessuale, ma questo potenziale è anche ragione di crescita della nostra personalità e volontà. Chi è in grado di controllare i propri istinti sessuali è un uomo o una donna che nella vita è in grado di controllare in modo positivo anche altri istinti, quali l'ira, la gelosia, i piaceri del gusto, la svogliatezza. Il giovane comprese il valore dei suoi istinti sessuali e se ne tornò a casa tutto contento, perché per la prima volta la continenza sessuale non era più per lui un inutile esercizio, ma una ragione per diventare un uomo a tutti gli effetti. Infatti, un uomo o una donna non sono solo coloro che sono adulti di età, ma chi è in grado anche di avere una giusta relazione con la propria sessualità. Ovviamente, se non è lecita la masturbazione solitaria, lo è ancora meno quella condivisa con altri. Anche questa pratica è più frequente di quello che si pensa. E i giovani che ne sono coinvolti spesso non si sentono normali, se per normale si intende che stanno facendo qualcosa che non è secondo l'uso naturale del sesso. Ciò è vero diversamente. Sono delle persone normali che devono solo evitare troppa intimità, quale dormire assieme e toccarsi. Spesso una relazione giusta e corretta, argomenti sani e non volti alla sessualità, riescono a togliere quella insana e morbosa attrazione sessuale. Chi ne è coinvolto non pensi di essere automaticamente un deviato sessuale, ma con la volontà può rimettere sui giusti binari la propria sessualità. Infine, vi è un altro aspetto della masturbazione anch'esso molto delicato, ed è quando tale pratica si trova nell'ambito del matrimonio. In questo aspetto sono costretto più che altro ad appellarmi a ciò che sostengono gli psicologi, i medici e i consulenti matrimoniali, i quali hanno preso atto che di frequente in un matrimonio un partner si masturba. Se il matrimonio, per quanto se ne dica, è una istituzione divina che ha lo scopo anche di evitare la fornicazione, cioè quelle pratiche sessuali illecite come la masturbazione, come mai si arriva a tale pratica? Anche qui il principio non cambia. La masturbazione rivela un difetto, una insofferenza, una anomalia nel rapporto di coppia. Una coppia che ha una buona relazione morale e spirituale ha pure una buona intesa sessuale. Perciò è ovvio concludere che chi non ha una buona armonia sessuale rivela un rapporto incrinato o inesistente. Così, o per ragioni di vendetta, o per un certa insoddisfazione, o perché un partner non si concede, o perché un coniuge è assente più del dovuto, il coniuge privato del diritto di avere rapporti sessuali toglie la tensione con la masturbazione. Questo quando tutto va bene, perché anziché continuare in una pratica sessuale non soddisfacente, il coniuge è bisognoso di un rapporto sessuale e lo cerca altrove, dando in questo modo adito all'adulterio o alla fornicazione. Così la masturbazione, sia giovanile sia nel matrimonio, è una debolezza rivelatrice come poche altre debolezze. Di modo che piuttosto di condannare severamente tale pratica, è opportuno aiutare chi ne è vittima, cercando di comprendere la ragione della sua consolazione nell'autoerotismo. Benché la masturbazione non sia né buona né legittima, a volte è preferibile ad una esistenza nevrotica e squilibrata, con la finalità di arrivare a possedere il proprio corpo. La masturbazione va considerata, per chi ha una sessualità sana, come una esperienza inevitabile e transitoria, non da incoraggiare, ma neppure da demonizzare, perché una condanna fuori posto genera ribellione. A chi si trovasse schiavo o meno del proprio istinto sessuale, la parola di Dio offre un rimedio da non trascurare. Camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Galati 5:16. In altre parole, la Santa Scrittura ci dice di mettere tutto il nostro impegno per essere sottomessi al volere di Dio, per compiere ciò che è giusto ai suoi occhi, di dedicarsi a ciò che è onesto e puro, a leggere con costanza la parola di Dio, a non trascurare la preghiera e la vita comunitaria, ad aggiungere alla fede la conoscenza. E poi il problema della masturbazione lo risolverà Dio. Provare per credere. Luglio 2005. Ellero,